perché questo è, non è un gesto politico nel senso di qualcuno che ha un'ideologia, che è un gesto di disperazione e di denunciare il fatto che lo Stato non c'è. Io sono stato nel Sulcis più volte, l'impressione è che di essere abbandonati. Però non so, hanno bruciato per esempio le tessere elettorali, e questo lo posso capire, no? Nel senso, uno ce l'ha, che ne so, con la politica, un certo modo di fare la politica, ma bruciare la bandiera italiana, al di là dei finti patriottismi, voglio dire, è un gesto simbolico molto forte. No, capisco, peraltro molti lavoratori che erano lì hanno contestato i lavoratori che hanno bruciato la bandiera. Io però per appunto non farei una discussione, diciamo così, in cui si dà il giudizio bene, male, avanti. Io penso che bisogna prendere atto che nel paese, dentro la crisi sociale, ci sono strati, in particolare di lavoratori, di disoccupati e quant'altro, che non si sentono più cittadini italiani, cioè che si sentono abbandonati da uno Stato che pensa ad altro ma non pensa a loro. Questo per me è il problema. Tenga conto che ad esempio nell'altro lato dell'isola hanno fatto l'isola dei cassaintegrati per attirare la questione su diciamo, mimando l'isola dei famosi, perché i lavoratori che l'hanno fatta dicendo quanto siamo lì disperati. Sì, all'asinare. Le chiedo questo, allora Monti poco fa ha detto, nonostante la riforma del mercato del lavoro, l'indice di gradimento nostro, che siamo un'eccezione temporanea, è alto, quello dei partiti no. E insomma è un Mario Monti che dice, va bene partiti, anche lei ha detto deve andarsene via, vi passa il cerino in mano Mario Monti a dire... Ma io penso che Mario Monti stia facendo politica alla grande, come è lui un grande dirigente, non è un ragioniere di banca, è un grande dirigente. Lui anche fa parte di un partito, diciamo, fa parte della Trilateral Commission, della Bilderberg, diciamo, fa parte di un internazionale che non si presenta ancora alle elezioni. Con questa storia del partito delle banche. Beh, non sono solo le banche, sono i grandi dirigenti, sono i grandi manager strategici di questo capitalismo in crisi, che hanno responsabilità pesantissime nella crisi, la Goldman Sachs, quelle di cui... Cioè io non sto dicendo nulla di male, penso solo che bisogna aver chiaro chi sono gli avversari, e loro sicuramente sono quelli che decidono le grandi cose. Ma, ma non è un modo di vedere la politica un po' vetusta, mi permetta il termine, Federico. Cioè, nel senso, cioè Mario Monti fa parte del partito del capitalismo, questo la sì, possiamo... sì, se lo vuol mettere così, ma grosso modo direi che la definizione è buona. Nel senso che fa parte di quei dirigenti che a livello internazionale sono dirigenti di fondo, cioè che stanno in punti importanti e che decidono le grandi strategie. Così come guardi, io penso in tutta franchezza che questa cosa degli spread che salgono e scendono, l'idea che questo sia un fenomeno o quasi naturale o... che non ha nulla a che fare con la politica, secondo me è una presa in giro gigantesca. A me pare evidente che le classi dirigenti europee hanno scelto un modello che permetta la speculazione e che usa la speculazione per tagliare i diritti dei lavoratori, comprimere il welfare, che è il vero obiettivo e che non sarebbero riusciti a realizzare senza la paura esterna. Ma altrimenti non si spiega perché... Cioè, sembra un po' tutto un complottone, la paura. C'è un uso della paura, io penso, molto forte. E se lei vede, la Banca Centrale Europea è intervenuta con grandi prestiti, più di 1.000 miliardi di euro per le banche private che poi stanno acquistando titoli, e quello ha fatto scendere lo spread. Ma se lei vede, appena il governo spagnolo, che pure è conservatore, c'ha dei problemi sulla riforma del lavoro, lo spread in Spagna rimane alto. Appena c'è un minimo accenno, una discussione sull'articolo 18 in Italia, si rialza lo spread. A proposito di articolo 18, le chiedo questo. Ieri Matteo Renzi, proprio in questo spazio, a questi microfoni, ha detto, con un tecnicismo giuridico direi che dell'articolo 18 non me ne può fregare di meno. Nel senso, è una norma del 70, parliamo dell'Italia del 2030. È una visione da sinistra progressista? Di destra, di uno che in nome della modernità vuole tornare all'Ottocento, perché Renzi non gliene frega semplicemente niente dei lavoratori in generale, di quelli precari, sottopagati. Ma la tutela dei lavoratori passa attraverso l'articolo 18 oppure si sta un po' esagerando attorno a questo tema? No, io penso che passi molto, perché l'articolo 18 tocca metà dei lavoratori italiani, però è quella metà dei lavoratori italiani che ad esempio negli anni scorsi è riuscita a fare i contratti nazionali di lavoro. Se lei pensa che i minimi salariali sono definiti dai contratti nazionali in questo paese e non dalla legge, è chiaro che mantenere un certo tasso di forza, diciamola pure com'è, da parte dei lavoratori nelle aziende medio-grandi è rilevante per tutti i lavoratori. In questo senso l'articolo 18 è un punto, è un punto importante. E poi allude in molti paesi non c'è, lo sai, in molti paesi civilissimi dell'Europa non c'è. Voglio dire, la Germania è un paese arretrato rispetto a noi, non credo. No, non è un paese arretrato. La Germania però c'ha un altro sistema di regole, perché si dice il sistema tedesco. Il sistema tedesco è un sistema in cui l'azienda non può licenziare nemmeno un lavoratore, ma nemmeno se lo prende a rubare, se prima non discute col sindacato e con il consiglio di gestione, di co-gestione dell'azienda, che ha un peso notevolissimo. E un'altra storia, la storia dell'Italia non è quella della co-gestione tra sindacato e azienda, è quella dei reparti confino e dei comunisti licenziati alla Fiat, che fanno parte della nostra storia. Ancora oggi la Fiat, nonostante sia condannata a riassumere i delegati sindacali che ha licenziato, non li riassume, li paga per tenerli a casa, non li fa entrare. Sono storie diverse. In Italia la discriminazione antisindacale e politica è stata molto pesante. Un'ultima vicenda, le devo chiedere un flash, me lo dica. Di Monti lei ha già detto se ne deve andare ieri. Del ministro Fornero, che dice non siamo qui a distribuire caramelle, per quello ci vuole la politica, bastava la politica, noi facciamo il lavoro sgradevole, che ne pensa? E penso che Fornero sta facendo è negativo per il paese, quindi sarebbe meglio per lei e per il paese che non lo facesse. Stanno producendo la recessione oggi e per i nostri figli, perché le politiche economiche, compreso il fiscal compact, di cui non si parla in Italia ma che avrà effetti pesantissimi per i prossimi 20 anni, stanno portando l'Italia a una recessione che durerà nel tempo. Io penso sia una scelta di politica economica e sociale sbagliatissima. La ringrazio Paolo Ferrero per essere stato con noi, il segretario di Rifondazione Comunista. Noi tra poco queste parole del ministro Fornero le sentiremo, le ha dette a Report domenica scorsa, e poi parleremo di questa dichiarazione di Monti, ma ancor più attuale. Noi abbiamo un indice di gradimento molto alto, i partiti no, che è un po' quello che ha detto Monti, qualcuno ha definito già l'editto coreano 2 giorni fa. Volete fare la riforma? La fate. Non la volete fare? Non staremo mica qui a campare. Che cos'è? Un ricatto di Monti? Lo capite? Da che parte state? Dalla parte di Monti o dalla parte dei partiti e della politica? Allora, mezz'ora fa da Tokyo Mario Monti ha detto le seguenti parole: nonostante alcuni giorni di declino a causa delle nostre misure sul lavoro, questo governo sta godendo un alto consenso nei sondaggi. I partiti no. Insomma, un Mario Monti che ripete quello che qualcuno ha definito l'editto coreano di 2 giorni fa, e cioè fate la riforma, approvate la riforma del mercato del lavoro, altrimenti che vi devo dire? Non staremo certo, come disse Andreotti, qui a campare. Noi siamo una breve eccezione, ancora oggi ha ribadito Monti. Io ho provocatoriamente detto: state con Monti o state con la politica? Ne discutiamo con Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera, che saluto, ben ritrovato e buongiorno Stellino. Buongiorno, buongiorno. Saluto anche il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, buongiorno Padellaro. Buongiorno, buongiorno. Tra l'altro io vorrei far risentire anche una frase del ministro Fornero, che ha fatto scalpore. Il Fatto Quotidiano insiste da 2 giorni a dire, ma insomma questa frase davvero è stata sconvolgente per noi. Il ministro Fornero, sentite cosa ha detto a Report, anche a me ha colpito molto, domenica scorsa, sentiamo. Siamo stati chiamati a far parte di un governo tecnico perché c'era un lavoro sgradevole da fare, non perché si potevano distribuire caramelle, perché se si fosse trattato di distribuire caramelle, l'avrebbero fatto i politici di prima, non avevano bisogno di chiamare qualcuno che stava prima a fare un altro lavoro. E questi guasti... I politici distribuiscono caramelle. Il debito pubblico, spesso sì, l'hanno fatto. Allora, Piero Stellino, qua c'è chi distribuisce caramelle, i politici, la politica, e chi deve fare un lavoro sgradevole, dice il ministro Fornero. Che ne pensa di questo atteggiamento? Cos'è, uno scontro frontale tra Monti e la politica? Ma io penso che sia Monti sia la Fornero abbiano perfettamente ragione. Quando cioè Monti dice se non si approva la riforma del mercato del lavoro noi ce ne andiamo, fa benissimo, perché lui è il dittatore romano dei periodi della Repubblica Romana, cioè veniva chiamato quando la politica non ce la faceva da sola. È come quando io chiamo l'idraulico perché in casa ho un rubinetto che non funziona, se pretendo io di aggiustarlo al posto dell'idraulico, l'idraulico ha ragione di dire beh, se lo aggiusti lei io me ne vado. Mm. Cioè, con questo non si tratta di delegittimare la politica, si tratta semplicemente di capire che Monti, la Fornero ed altri non sono stati eletti, quindi non hanno un dovere di rappresentanza, sono stati chiamati ad aggiustare un rubinetto e loro lo aggiustano come ritengono sia giusto ad aggiustarlo. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, il Parlamento può approvare o non approvare, ma allora a questo punto loro hanno anche il diritto di dire beh, arrivederci e grazie, che ritornate voi e fate quello che vi pare. Ma quando dice i partiti non hanno l'indice di gradimento che abbiamo noi, secondo lei va a toccare un tasto corretto, cioè gli italiani? No, questo è eccessivo. Questo è un indizio di arroganza che il Presidente del Consiglio tecnico non dovrebbe manifestare nei confronti della politica. I partiti sono la rappresentanza, perché sono i rappresentanti del popolo, perché non può governare il popolo ma delega dei suoi rappresentanti. E quindi i parlamentari, quindi i partiti che li rappresentano, sono la rappresentanza del popolo sovrano. Quindi quest'idea di delegittimare la politica in questo modo, a mio avviso, è francamente sbagliata. Sbagliato. Sentiamo su questo Antonio Padellaro. Voi al Fatto Quotidiano da due giorni battete il tasto su questa frase infelice, per usare un eufemismo, voi dite, del ministro Fornero. Però effettivamente cosa dovrebbe fare il ministro Fornero? È vero che distribuire caramelle, insomma, come non fate polpette della riforma che ha detto la Repubblica, sono frasi magari anche efficaci dal punto di vista comunicativo, per carità, Padellaro. Però effettivamente fanno storcere un po' il naso. Lei perché voi attaccate così tanto la linea Fornero? Ma intanto ricollegandomi alla metafora di Ossellino sull'idraulico, sono d'accordo, l'idraulico deve aggiustare le tubature. Ecco, se però le prende a martellate, insomma, il discorso è diverso. Allora, diciamo questo, che il governo Monti rappresenta uno stacco gigantesco rispetto al governo precedente, è un governo tanto di galantuomini e di persone che hanno si sono presentate con una storia personale di tutto rispetto, e in questo caso rispetto al passato possiamo giudicarli sulla base dei loro atti. Il governo precedente viveva in una nuvola di discredito ed era difficile distinguere le cose pochissime buone da quelle cattive. Allora il governo Monti sta facendo delle cose egregie e sta facendo delle cose sbagliate. Penso che un giornalista, dei giornali possano legittimamente distinguerle. C'è evidentemente un'arroganza, chiamiamola così perché è la verità, da parte di alcuni esponenti del governo Monti. Lo stesso presidente Monti, dietro questa aria molto ironica, lancia delle stoccate mica male, no? Ma infatti esattamente. E quindi è giusto che dei giornali lo facciano notare. Quello che io non su cui non sono d'accordo sono gli ultimatum di Monti. Ma Monti secondo me non ha lanciato nessun ultimatum, sono i giornali in questo caso, certamente non il nostro, che vibrano subito. Potrei, sì. Intanto siamo abituati a questo tipo di frasi, potrei andarmene, insomma ne abbiamo sentite centinaia. Io penso che se un premier, un ministro, un segretario di partito vuole dimettersi, si dimette e basta. Quando si lanciano queste piccole minacce significa che si vuole premere sull'opinione pubblica. Beh, in questo caso sul Partito Democratico. La frase che lei ha letto un minuto fa di Monti, sì, va proprio in questa direzione. Monti dice: guardate, cari partiti, che io sono popolare e voi no. Da questo punto di vista ha perfettamente ragione. il discredito dei partiti ai minimi storici. Appunto, e lui gioca su questo. Lui gioca su questo, però Ostellino, lei ribadisce su questo, è simbolo di arroganza questa idea di dire io sono popolare e i partiti no. Però voglio dire, non è un messaggio come dire state attenti i partiti, perché se adesso arriva la riforma del mercato del lavoro e volete fare, come qualcuno ha detto, un Vietnam parlamentare, e poi il risultato è che noi ce ne andiamo e il paese torna alla situazione di qualche mese fa. Ma innanzitutto io non ci giurerei che sia così popolare, che i partiti non lo siano affatto, questo è evidente, ma che questo governo sia popolare, sia destinato a restare popolare, io non ci giurerei, perché questo governo in realtà è un governo conservatore dello status quo che ci ha portato alla rovina. Cioè questo governo avrebbe dovuto fare delle riforme strutturali che riguardavano le dimensioni e la natura dello Stato, invece ci ha aumentato le tasse per fare in modo che lo Stato continui a spendere persino più soldi di quanto non ne spendesse prima. E quindi questo è lo status quo rispetto a ciò che ci ha portato alla rovina. Cioè, in altri termini, l'aumento delle tasse prodotto dal governo Monti è un tentativo di mettere una pezza ad uno Stato che non regge più, che spende troppo e ci chiede troppe tasse. Però la riforma del mercato del lavoro. Conservatore, è un governo conservatore. La riforma del mercato. La riforma del mercato è evidente che è un passo avanti. Però la riforma del mercato, che liberalizza in qualche modo il mercato del lavoro, è destinata ad avere dei risultati a lungo termine, ma non a risolvere i problemi a termine medio e breve, come dovrebbe avvenire. Cioè il governo Monti è stato chiamato a risolvere i problemi a breve termine. Sì. E a breve termine ci ha impedito, diciamo così, la bancarotta, cioè lo Stato non è fallito. Io sono dell'opinione che lo Stato invece doveva fallire, l'ho scritto anche sul Corriere. Chi agisce in politica deve assumersi le responsabilità delle proprie azioni. E quindi se io, uomo politico, faccio qualche cosa, devo assumere le responsabilità, se sbaglio devo pagare. Se lo Stato falliva se fosse fallito alla greca, poi lei lo sa che purtroppo ci saremmo andati di mezzo tutti. Ma non è vero, ma non è affatto vero, perché se uno Stato fallisce non è la dissoluzione dello Stato, non è che lo Stato scompare e alla fine non c'è più il vigile urbano che ci regola il traffico in mezzo alla strada. Vuol dire che arriva un'altra classe politica, vuol dire che la classe politica che ha fatto fallire lo Stato viene cacciata e ne arriva un'altra. Tutto lì. Invece secondo lei Monti mantiene quello status quo che ci ha portato alla rovina? Ma certo che lo mantiene. E lo prosegue. Perché tra l'altro, quando il governo Monti propone la riforma del mercato del lavoro, in realtà il governo Monti si appella alla Costituzione materiale, quella che ci ha portato alla rovina, cioè in altri termini non alla Costituzione formale, quella che è scritta dal 1947-48, ma alla Costituzione materiale. Guardate che il mondo è cambiato e quindi deve cambiare anche il mercato del lavoro. A questo punto, dal suo punto di vista, ha ragione la Camusso quando dice no, applichiamo la Costituzione quale è, per il semplice fatto che la Costituzione è una promessa di una rivoluzione in cambio di una rivoluzione mancata. Nel 1947 chi ha approvato questa Costituzione sognava una rivoluzione, è una rivoluzione socialista, diciamolo chiaramente, e cioè collettivista e dirigista. Questa non c'è stata ed è nato un compromesso che è appunto una rivoluzione promessa ma non attuata. In cambio di una rivoluzione che non c'è stata. Si fermi qui, devo dare le informazioni sul traffico, poi rientriamo da Antonio Padellaro. Allora, Monti e la politica, Monti e i partiti, siamo con Piero Ostellino del Corriere della Sera e Antonio Padellaro, da cui vorrei tornare, direttore del Fatto Quotidiano. Oggi sul Fatto, da un paio di giorni, raccontate la storia di molti esodati, no? Quelli che si troveranno di fatto per un periodo di tempo la loro vita senza lavoro e senza pensione. Però il ministro Fornero ha detto ci saranno degli ammortizzatori su questo, stiamo pensando a questo. Forse si riferiva a lì anche quando ha parlato delle celebri caramelle che non siamo qui a dispensare, ma a fare un lavoro sgradevole, ministro. Caro Padellaro, voi però oggi raccogliete delle proteste di queste persone. Cosa non va bene di questo lavoro sgradevole del ministro Fornero, secondo voi? Ma intanto il caso che lei sta citando, che di cui ci stiamo occupando sul Fatto Quotidiano, è incredibile. Cioè si calcolano 350.000 persone ma potrebbero anche essere 200.000 o 400.000, perché non si hanno dati certi, che sono stati truffati dallo Stato, cioè hanno accettato dalle loro imprese, dalle loro aziende di andare in esodo volontario. Poi è arrivato il governo e ha detto un attimo, l'età pensionabile è spostata di qualche anno, e quindi si trovano in mezzo al guado senza lavoro e senza pensione. È una situazione incredibile. Allora, che il ministro Fornero risponda beh, adesso troveremo qualche caramella, mi sembra paradossale, ma è in linea con quello che dicevamo prima. Ma come si fa a trattare queste persone come se fossero una tra le varie ed eventuali, no? Sì, un ammortizzatore, un piccolo sussidio, ma queste persone hanno diritto, sono dei cittadini italiani. Però Monti, su questo non vogliono proprio segnare una cesura netta con una politica del passato, la politica assistenzialista, la politica che ha portato a creare magari delle situazioni non quelle degli esodati, No, non quelle degli esodati, voglio dire. Sì, no, ma io voglio dire, rispetto sempre all'idraulico, qui in questo caso siamo veramente alla martellata sul tubo dell'acqua che sta sfasciando tutto. Vorrei dire, io sono d'accordo con Ostellino quando dice che questo governo sta amministrando lo status quo. È verissimo, e tanto è vero che è un governo che si basa sul voto dei partiti che hanno governato, fino tutti i partiti, parliamo di destra e di sinistra, che hanno governato l'Italia e l'hanno portata a questo bel risultato. Io credo però che non basti governare per qualche mese la situazione italiana per evitare il fallimento di cui parlava Ostellino. Cioè, ho l'impressione che non è che ce la caviamo con 6 mesi di governo tecnico. Ma infatti qualcuno pensa addirittura, vorrebbe una proroga a Monti. Ma guardate, pensi un po'. Se il punto di riferimento di tutta questa situazione grave in cui ci troviamo sono i mercati, no? Guardate che lo spread sì sta calando, sì, ma cala fino a un certo punto, poi diciamo è uno spread ancora, è come se invece di avere 44 di febbre avessimo 41 40, quindi io ho l'impressione che questo paese dovrà prepararsi a qualcosa di più duraturo, sì, e anche forse a delle riforme molto più dolorose, per evitare quel fallimento che certamente io non mi auguro, a differenza di Ostellino, ma che certamente è dietro l'angolo. Ma infatti Monti ha detto, tra l'altro, siamo una breve eccezione. Vorrei sentire Carla da Bari, ci ha chiamato all'800240024. Lei è l'unica ascoltatrice, mi scuso con Salvo e Lucio, ma non c'è tempo per loro. Carla, buongiorno. Dottor Milan, buongiorno. Dica. Chiedo scusa per la veemenza della mia telefonata, ma sono veramente imbestialita. Non riusciamo più a tollerare questi racconti, queste favole di questi politici, di questo governo. Sono dei delinquenti. Ma questo governo, cioè il governo Monti? Sì, anche il governo Monti. Ci hanno messi in ginocchio. Non riusciamo ad arrivare a fare neanche la spesa. Sono dei delinquenti, vadano tutti via. Tutti via, vabbè. Vadano tutti via. Accolgo il suo accorato appello e lo giro a Piero Ostellino. L'ascoltatrice Carla da Bari esprime quanto dell'opinione pubblica e del sentimento degli italiani, secondo lei, Ostellino? Il sentimento degli italiani è che sono oppressi dalle tasse. Per carità, io non arrivo alle definizioni della signora, ma il fatto che siano oppressi dalle tasse, che non arrivino alla fine del mese perché lo Stato gli porta via metà di quello che guadagnano, effettivamente hanno ragione gli italiani a protestare. Però d'altra parte gli italiani hanno applaudito questo governo quando questo governo aumentava le tasse, perché siamo un paese strano, cioè siamo lo stesso paese che ai tempi di Mussolini chiedeva volete burro o cannoni, invece che rispondere burro rispondevano cannoni, e questa volta hanno fatto la stessa cosa. Ma il problema vero è un altro, e cioè che nella vicenda della riforma del mercato del lavoro, in discussione non è il mercato del lavoro, è la Costituzione. Sì. Noi abbiamo una Costituzione che definisce il lavoro un diritto, ma in un sistema di mercato, di domanda e di offerta, il lavoro non può essere un diritto, ma è una merce soggetta alla domanda e all'offerta. Allora bisogna creare le condizioni di crescita e di sviluppo affinché che consentano che ci sia una domanda di lavoro superiore all'offerta di lavoro e che quindi non ci siano dei disoccupati. Con una Costituzione socialista o collettivista come abbiamo, È evidente che ogni volta che si vuol fare una riforma in senso liberale si creano problemi, no? No, su questo io la devo fermare e vi ringrazio Piero Stellino e Antonio Padellaro e ci troviamo domattina.